asilo, meno qua, mi sembra in Messico, che di quella tipa che poi schiaffi con la neonata perché stava piangendo, l'hai vista Rubè? Non l'ho vista, io avevo visto una babysitter che poi l'hanno arrestata in America, che la portava ai bambini e andava a fare le commissioni tipo città mercato, cose così. Metteva la bambina, questa bambina era un po' vista, ci aveva avuto 2-3 anni, era, camminava appena appena, era seduta dentro la macchina, lei era un po' indecisa, le ha iniziato a dire la pugna a caccia a questa bambina e l'hanno ripresa con le telecamere, ma non è quella, l'hanno trovata, ma era di quelle ragazzine studentesse che hanno preso 16-17 anni, che c'erano appena la macchina, che in America la macchina stava prendendo 16, ci aveva avuto 17-18 anni. Ecco, ma le hanno nascosto a questa bambina. Ma non è che l'hanno ripresa dalla telecamera e l'hanno denunciata e arrestata immediatamente. Sì, sì, meno male che stanno mettendo le telecamere. Perché la cosa è... Ma allora poi, ma della dove... Alto sono troppo. Ma certo, lo dico subito che non ti sto guardando. Vai, stavo... ti sto dicendo. Meno male che ci sono le telecamere, Robè, perché sennò neanche questo avrebbe dovuto farle niente. E allora ti li hanno fregati pure che c'è una ripresa televisiva. Già lo so, no, adesso è perfetto, salvato, non tocca niente, li vedi, vanno benissimo, l'altro è già a livello rosso, va benissimo, e poi avrebbe messo le telecamere, questi balordi, per non dire altre parole, che lo sportano in buio, adesso la matatura, l'hai visto, l'hanno rifatto tutto a nuovo, bello, cazzo, mica l'hanno di fronte ai giardinetti dei pompieri, l'hanno tutto pasticciato con questi spray, si capisci, fanno un bel disegno, tipo come li fanno a Porto Torres, vicino alla galleria, hai visto quelle pareti belle, ti dici, vedi, una parete lì che avrebbe, mettete lì, dice, cazzo, si fanno queste scritte che non significa, arrivato lo so, ma basterebbe far girare un po' di più i vigili di Sassari, perché invece non ci sono mai. Ah, ma quanto sono classica, stanno sempre qui o dentro il bar oppure dentro l'ufficio al caldo, vabbè. Guarda, non siamo in quel punto, se no, guarda, parlo male, preferisco che non mi senta nessuno, perché se sai quello che penso di quelle persone, lasciamo perdere. Io ho detto che ammiro il vigile del fuoco, quelle persone lì, le ho sempre ammirate, perché sono le persone che se ne fanno il mastro, gente che ha tutto le ore del giorno e della notte, le chiami e vengono, disponibilissimi, gente, chi fa niente, e sono lì per prendersi lo stipendio. Comunque, non è un discorso salvato, se no, mai ascolta qualcuno e mi dispiace, non voglio crearmi i problemi, dai, cambia di argomento. Cambiare argomento, comunque sono una massa di cose, ma anch'io dico che vabbè lasciamo perdere. Anzi, diciamo, domani sera abbiamo invito, abbiamo organizzato la partita di calcio a 5, ci viene Robè. Ma dobbiamo vedere, no, giocare, no, salvato, si gioco va a sapere, anche dai questa roba. Hanno preso il campo alle 9, alle. Non sei 9, alle. Alla Tedolce, dove c'è quella scuola a calcio, dove detto che non la conosco neanche, c'è che c'è una scuola a calcio. Dove dietro non la PGS, ma un'altra. Ma ascolti sa che sta dicendo, ma dove la traccia la Tedolce o via Pirandello? E poi c'è via Pirandello, dove c'è il Sardo, il Serpe. No, allora c'è un'altra cosa. Aspetta, perché via Pirandello è la via dove ci sono le luci gialle, dove c'è il ciso, ma cos'è quello delle ambulanze. Questa dice, il Serpe è via, come cavolo si chiama, non mi ricordo come si chiama quella lì. No, le uccisioni già lo so, sì, io non lo conosco, dice che c'è una scuola a calcio con la intitolata Oggiano, mi sembra, quello che gli aveva morto il figlio in incidente, non morto in due. Stefano Oggiano, sì, ho capito, però non so dove sia il campo, non ce l'ho presente. Anch'io, ma l'hanno organizzato la stessa sera, no, anch'io gioco, vado così a vederla qui, a fare i obiettivi, perché li conosco tutti, ma no, obiettivi, niente, neanche mi porto la roba, vabbè. Non so che poi con questo freddo qualche strappo muscolare ci vuole pure. Io la mia fatta buona, qualche partita l'abbiamo fatta, però sono da un po' che no. Vabbè, per fatti due tiri va bene, senza esagerare. Però il campo di calcetta è maledetto, io ho avuto problemi al ginocchio proprio su calcio, io ho mai avuto infortuni in vita mia, cioè infortuni parliamo importanti. La ruota del campo del calcetto mi sono fatto male. Ma un intervento da niente, che se ci pensi è impossibile. Lo sai, mi ha passato a calcio, interventi pericolosi e cose del genere, mai avuto niente. Dovuto le due volte mi sono fatto male a calcetto. Prima al ginocchio e l'anno scorso, anche 2 anni fa, al polso, che c'era ancora il polso, mi è caduto pesantemente sul polso. Ma la gente si è fatta male a giocare a calcetto, perché purtroppo fai scatti brevi e poi troppo non c'è lo spazio, non hai capito? Ma una cosa, ma e voi quando riprendete adesso? Campionato? Sì, in generale, ragazzi, bambini e campionato. No, oggi c'è l'allenamento, mia figlia, allora Gesù statunitensi si sono allenati oggi, giocano domani in recupero con la Lantieri. Poi la prima squadra gioca domenica mattina con la, come si chiama, Resilience, in quel campo che c'è, andando a Capocazzo, un bel campo nuovo in sintetico che hanno fatto Villa Assunta, e poi gioca la giornata dell'Epifania, sì, in casa giocano. Chi tra giocatori giocano questa domenica? No, non giocano gli altri, io non ho mai capito che bisogna essere fatti fare due partite una dietro l'altra. Il Coel sì, perché sei presente di lavare le magliette, pure non sembra di vento se vanno nel 56 di maglia, e quello lì è il discorso, non ho mai capito per fare motivo, e poi il 16 aprile finisce tutto, cacchio, quando gli sarebbe la stagione, giocare d'inverno, fargli giocare una settimana in più e non farli giocare in cosa, in festa. Quello cosa, è strano perché poi tu dici che c'è il bel campo, proprio un ambiente bellissimo, poi dopo ci è uscita sempre la buffa di loro, e anche lui dice. Poi di lì l'altra lì abbiamo vinto, stiamo prendendo 2-0 con la partita lì, che abbiamo vinto 3-2, che è stata una partita, però una mega cronica, magari sa, un bel gusto, erano espulso due allora. E io non lo so, ma il campo sempre quello attaccato, che la porta una porta al portiere risulta quasi attaccato al pubblico. Sì, il campo è piccolissimo, non credo che l'abbiano allungato, ma era proprio il fosso delle ure, chiamiamo, ora tutto uno a fianco all'altro. È quello, porca carità, un ambiente molto, quindi non c'è niente a che fare, quindi vanno solo, tutti vanno al paese, tutta la, non il paese, diciamo, tutta la borgata vanno a vedersi una squadra di calcio. E da dove è che la gioca gli allievi? Gli allievi, gli esordienti, dove gioca mia figlia? Alle 4 giocano domani. Contro Lantieri, ma dove? La voglio al campo Lantieri? No, abbiamo voluto giocare da loro, però c'hanno problemi di campo, ho detto venite da loro e giochiamo, abbiamo invertito il campo. Ah, ok, cioè avete invertito, sì, so che sicuramente sarà tutto lagato, non so mai niente col campo. E domani qui ci puoi, no, alle 4 stacchi da lavoro, vabbè. No, purtroppo non ci posso andare ad accompagnare la mia figlia e mia moglie, voglio. Ok, ma poi sono i buoni, i rapporti con Lantieri sono buoni, vabbè. Ma diciamo, in particolare non abbiamo mai avuto niente con loro, ormai sono megalomani, vogliamo va, chissà che cosa, adesso la prossima volta ce li ritroveremo in tempo. Tranquilli, ma va bene questo, che loro che voi non siete tranquilli, ma sono loro che hanno avuto problemi con tutti, l'hanno avuto con Campanella, l'hanno avuto con lo Sentino, l'hanno avuto con la Fulgo, l'hanno avuto con tutti, guarda, non c'era punta che non c'erano problemi. Vabbè. Purtroppo ci sono dei personaggi da tutte le squadre, noi grazie a Dio viviamo per conto nostro, non dobbiamo niente a nessuno, abbiamo diciamo delle persone abbastanza serie, ci possiamo vantare di quella. Ci sono certi personaggi in certe società, adesso facciamo nome, tra cui quelli lì, anche se qualcuno è andato via, è meglio che non ci stiamo per niente nello sport. Sì, quello è vero, però sono rimasto uno di me, non voglio fare nome neanche io. Che è rimasto, c'ha una scelta che per carità non può fare educazione ai bambini, ecco. Tutto, c'è di peggio comunque, in certe società ce n'è di peggio. Sta diventando un business, c'è gente che va per prendere i soldi. Se ti dico quanto li danno a ogni allenatore, a ogni bambino, dai 10 ai 12 euro al bambino. Ci sono società che hanno allenatori che fanno due sedute di allenamento nella stessa giornata, hanno 23 bambini a prendere alle 3 e 23 alle 4 e mezza. Fate un conto, a 12 euro al bambino, per due volte alla settimana, che non hanno, il più importante la domenica, cosa ti viene a fine mese? Vabbè, se a livello di lavoro posso anche capirlo, cioè non fai altro, fai quello, il tuo lavoro, potrei anche capirlo, spesso chi glieli dà la società, chi glieli dà lui, Hai capito, la società fanno i soldi, da noi si paga una cifra per dire, ci sono società che paghi più del doppio, sei obbligato a prendere il kit, quello che vogliono loro, e si ci scopano con il kit. Conosco gente che ci ha sgoppato, dice la società, dalle visite mediche, che loro le pagavano 25 e te le facevano pagare a 40 e ti costringevano a farle anche per quelli che non è necessario per i bambini. Entro i 12 anni non è obbligatorio la visita agonistica, loro ti costringevano a far passare di nemmeno. Vabbè, ma ognuno doveva al pit, vedi, queste notizie, che poi crescono, sai come si sgonfiano queste società. Lui, perlomeno, i genitori non sono fissi, cioè danno i soldi per i figli, danno i soldi per i figli, e poi diventano orecchio a queste cose, sono i primi andassero via. genitori, ci sono genitori intelligenti, genitori che non ne hanno futi nuda, che loro non vogliono, non possono toccare. Se poi la società è scadente, l'allenatore non ne comprende nuda, non ne ha futi nuda, dice tanto, è sotto casa, però lasciano sotto casa, non pensano. Avevano un'educazione, una disciplina, allora non abbiamo fatto nulla, abbiamo vinto questo, quest'altro, e pensano solo al risultato questi genitori, non abbiamo fatto nulla, e così sono allenati, e ti posso dire, il 90% sono così gli allenatori, solo per il risultato. Sì, è vero, è vero, però questo non è messo un po' la fisicità, o chi, vabbè, non sono tutti che fanno campionato fisici, ma quelli che hanno fatto la fisici dovrebbe esserci un po' più di controllo da parte di loro, non dare certe direttive e inculcare certe idee agli allenatori, a chi fa i corsi soprattutto, Roberto. Ti sto dicendo, fortunatamente qualcuno si fa il corso e cerca di capire, se è intelligente, di capire come funziona la luce, però la maggior parte degli allenatori sono solo per i risultati. Io, fisici ti dice proprio espressamente, non ci deve essere agonismo nelle partite sino agli esordienti, poi successivamente piano piano li abitui anche al risultato. I bambini devono giocare tutti indistintamente, indipendentemente dalle proprie capacità, devono avere la stessa possibilità come una scuola. Tu un bambino di prima elementare, se quello è bravo a scrivere dalla lavagna e l'altro no, cosa è quello che non è bravo, lo mandi via, devi prenderli tutti allo stesso livello, tra l'altro tutti pagano, per cui devono avere le stesse opportunità di giocare, non solo quelli bravi. Se tu vai a vedere, io ti sfido a trovare le contro, sulla punta delle dita le società che non guardano i risultati, sono quasi tutte così. Non so che avevate queste direttive, però poi trovi gli allenatori che invece si schierano sempre le solite persone, i più bravini, e quegli altri li tengono in disparte. Capito? Non so, perché poi guardano più il risultato che altro. Ma questo è anche un po'. Beh, anche qui si ripercuote, l'educazione che dice alla famiglia, si ripercuote poi quando diventano grandi, poi quando lo vedi che poi questa gente va allo stadio, inizia a fare le squadre, e se la squadra perde si fanno a botte o sfasciano lo stadio. Ma non sono, c'è bisogno che tu lo dica io, ma purtroppo non me lasciamo perdere, io non voglio fare il presuntuoso, ma dico, noi non ci segna niente nessuno dal punto di vista educativo, di risultati sicuramente ci possono fare vabbè capelli, perché fanno le selezioni in certe società, però a livello di educazione non ti sfida a trovarne qualcuno meglio di noi. Quanto lui ci, ma meglio non è più. Te lo posso far vedere e dimostrarmi il contrario, io li conosco tutte le società di secondaria. Tutti fanno le selezioni, e fanno giocare i più bravi, eccetera, eccetera. Non esiste, non è un'educazione sportiva. Hai veramente ragione. Ma scusa, ma la Cura Giordani invece c'è ancora o l'ha chiuso? Bisogna vedere la fine che ha fatto, no? Certamente andiamo a giocare anche da noi. C'hanno due categorie che sono rimaste, i Pulcini e i giovanissimi regionali, basta. Ce ne sono altre che vanno a fare la fine, perché appunto come tu guarda, miravano solo il numero e avere la, però diciamo qualche società era protetta anche un primo, era protetta la fisicimi, era protetta, perché io con la riunione vedevo che era sotto la protettrice dei dirigenti fisici. Magari è capitato, ma diciamo a livello di federazione qualcosina è cambiato, stanno un po' di assistenza, perché il presidente nuovo regionale era l'ex presidente del settore giovanile scolastico, per cui c'è anche una certa cultura delle scuole calcio, diciamo, del settore giovanile, sta cercando anche di migliorare i risultati. Infatti ha fatto una cosa buona, finalmente l'hanno fatto, la coppa disciplina fanno anche per i dilettanti, e non ti danno più la solita targhetta del prodotto, ti danno un premio in denaro, per dire decidono di dare 5.000 euro alla società, per le società che vincono, sono grado di vita, non so quanti sono, i gironi, quindi hanno un premio in denaro. Secondo me è una cosa anche stimolante, perché dici, Catami, da questa cosa ha vinto la Coppa Disciplina, ha vinto 1.000 euro, le hanno dato. E l'anno prossimo ci stai più attento, vedi che gli arbitri verranno rispettati meglio, perché ogni tanto dobbiamo fare a Tullio, l'hai visto a Muro su cosa è successo qualche settimana fa. Forse è stata una cosa saggia quella, forse riesco a limitare un pochettino diciamo questa esuberanza che si ha, cioè poi l'esuberanza viene sempre dal di fuori, è più dal di fuori che dal di dentro, è giusto che ci sia così. Guarda, poi mettere un premio in soldi stimola ancora di più con i tempi che siamo, perché la Giulietta non è una targhetta, una coppa non avrebbe avuto nessun, cioè significato avrebbe avuto, perché dovrebbe avere significato, non avrebbe avuto nessuno stimolo. Mettere in soldi, mettere in palio dei soldi magari dà un significato, uno stimolo maggiore, e non solo cosa sto dicendo, perché io mi sono operato anche per quello, non ti dico altro, anche per quello. Però sei brutto anche questo discorso, perché ti pare che devi pagarli tu per fare la brava, non esiste, però purtroppo non ci sono altre soluzioni più facili da attuare, per cui anche quello è una soluzione. Mi pare che si calmino un po' gli anni, mi dà. Certo, può avere che si calmino gli anni. Però la gioventù pagare, ma fin tanto che cioè, le società che educano gli atleti e anche i genitori, perché molte volte vanno educati anche loro, ce ne sono pochissime, ci sei per lui e forse qualche altra, non è che ce ne siano molte sul panorama calcistico. E purtroppo è per educare quelle altre, perché poi sono le altre che creano problemi quando vanno in trasferta, quando incontrano magari anche ragazzi abituati a non reagire. Certamente, io ho mio nipote che gioca con noi e ha portato il cuginetto, che almeno me l'ha preso, ma lui è cugino, c'era una società, giocano nella stessa scuola. Questo bambino era abituato a giocare in una società qua importante, diciamo, di scuola a calcio, non facciamo nome, abbastanza rinomata. Questi bambini erano abituati a vincere, e noi stiamo parlando un bambino del 2002, è uno un po' più grandicello. Questi bambini erano sempre abituati a vincere, sono venuti là, siccome l'allenatore nostro fa giocare tutti indipendentemente dal risultato, anche se sta vincendo 5-0, titolo il portiere, fa entrare un altro bambino e perdono 6-5, talmente è per far giocare tutti. Il genitore non si è ancora abituato a questa idea. Quando mi ha detto proprio avanti ieri mia cugina, anzi no, ieri cos'era, 27 avanti ieri, era a casa mia, mi ha detto, lo sai che mio nipote, facciamo le partitelle in campagna, molte volte giochiamo, vincono, si vince, si perde, quello mio figlio quando finisce la partita che perde dice, siamo divertiti, dice questo bambino si mette a piangere perché non è abituato a perdere, non si sa perdere, fa un sacco di macello, eccetera, eccetera. E secondo te questo è educativo? No, non è educativo, anche perché pompato sul compatto da fuori, proprio come ho detto, bisogna educare anche i genitori molte volte, bisogna educare. Poi la scuola è rinnovata, perché ti ripeto, l'hanno fatta l'anno più compatta, questa scuola, se quella che ho capito, l'hanno pompata molto anche per l'ambiente esterno, l'hanno pompata. E poi rinnovata, alla fine i allenatori fornivano ogni quanto da guardare le società che non avevano fatto favore. No, ma io l'ho detto, guarda, io non per essere presuntuoso, non qua a casa, diciamo a noi, parliamo in generale, non c'è nessuno che mi possa insegnare niente, o che ci possa insegnare a livello di educatore dei bambini, te lo posso garantire, non perfetto, parliamo di educazione, parliamo di tecnica, quello può essere, ci sa qualcuno, non lo so. Io sinceramente ne ho fatto tante di corsi, ne ho visto di tutti i colori, io sono nato in mezzo al pallone, già lo sai, per questione di famiglia, ne ho visto di tutti i colori, ne ho visto bianchi, rossi, verdi, di tutti i colori di allenatore. Da un'altra parte è tutta un qua da qua, è inutile che vinci il campionato perché c'è la squadra fuori, e poi alla fine quel bambino, quello bravo, non è fatto certo diventare bravo tu. Il giocatore è stato insegnare a uno che non fa giocare a pallone, diventare mezzo giocatore, non dico giocatore, e farlo continuare a giocare a pallone. Io ho visto certe società di bambini che sono andati via, hanno mollato il calcio, perché l'allenatore lo faceva entrare 2 minuti e poi non lo faceva giocare. Ma cos'è quello? Allenare i bambini. Non ho capito tutto, non ho capito niente, non ho capito. Non ho capito niente, ma ce ne sono società che sono a parte voi che sono andate avanti proprio con questa mentalità. Vabbè. Ma quest'anno insegni, Robert, ti chiamano? No, sinceramente non lo so, noi stiamo facendo un progetto, adesso non so se va avanti, il problema non è che ci abbia tanto tempo. Quello che faccio veramente piace tantissimo, proprio una cosa che mi dà soddisfazione più degli adulti. Io ho lavorato anche gli adulti, però diciamo, non è. È bello, sì, insegnare certe cose, però dovreste avere una rosa abbastanza ampia. Io sempre negli ultimi anni ho una rosa ristretta, per cui non puoi riuscire a fare certe cose che ti propone di fare. Vale, fatti bene all'inizio, poi alla fine anche loro, ragazzi grandi, hanno altri diversivi e ti trovi molte volte a andare a giocare contatto. Contatto di certe persone che perché poi alla fine non ce le avevi, però non me ne frega niente, ho avuto anche delle soddisfazioni. Le soddisfazioni più grandi le ho avute con i piccolini, mi va, siamo andati, sono aiutato perché mia moglie sta allenando i piccolini, i micro-piccoli si chiamano, dai 5 ai 6 anni i bambini, e lei sta appassionando eccetera eccetera, lei è maestra d'asilo, però con quei bambini diciamo il calcio non lo devi vedere solo come gioco nel calcio e fai altri giochi eccetera eccetera, attività ludiche diciamo. E di lì sono andato la compianata io domenica scorsa, ti posso dire mi sono anche divertito, ho fatto una bella partita, i bambini proprio ti vengono, ti salutano, ti abbracciano, quella è la soddisfazione, quando vuol dire che i bambini ti seguono, ti riconoscono la tua, quello che ti stai insegnando, con i grandi invece, mamma mia, rabbia dura e buca. È vero, non solo li miei abbracciati, pretendono, pretendono di portarmi a mangiare, pretendono questo, pretendono quell'altro, la casacca, pretendono che ci sia il pubblico a portarmi, no, pretendono, hai ragione, i bambini sono la cosa più bella. Poi quel portiere che di qua stava, l'avevi, ci stava un altro di Fabio, ha ripreso. Allora Fabio è sempre affezionato a noi, tra parentesi quando è libero viene sempre partita. Abbiamo fatto in prestito una squadra del portatore di calcio a 5, fa un campionato regionale, però non so se ultimamente sta giocando, perché non vedo più assiduamente, ed era un po' mezzo indeciso, era sempre Fabio, prestito te ne sei che te ne sei andato, è un pochettino, per cui sicuramente forse non sta giocando di meno o non lo so. L'importante è che, anzi forse è un bene, così almeno che capisce l'attaccamento alla maglia, e poi c'è un ragazzo già può rientrare, comunque non era male, voleva magari correggere alcune cose, vabbè poi lui c'era l'impostazione sul calcio a 11, che ben diverso dal calcio a 5. Ma lui non era neanche potere, cioè lui si voleva mettere in porta, lui è nato terzino, poi alla fine si è messo a giocare in porta, per cui ma non hai una tecnica, una preparazione su quel tipo di ruolo, vabbè, diciamo, però diciamo si è messa anche qualcosina, l'ha fatta in coso, giocando in porta, non è un granché, però a livello così di divertimento già va bene. Sì, ma lasciano continuare in porta, ora non c'è trovato più portiere, vabbè, un ruolo che sta andando in estinzione, non c'è, non c'è nessuno, tu vai sì, non puoi più portiere. Io quest'anno ne abbiamo, anzi l'anno scorso abbiamo uno 91 molto forte, questo ragazzo ce lo stanno attirando da tutte le parti, però ha voluto rimanere con noi anche se aveva ricchezze superiori, diciamo di categorie molto superiori, è rimasto perché è un ragazzo di compagnia e poi ne è venuto uno recentemente per la riunione, io non l'ho visto giocare, però dice che fa la differenza, infatti come è venuto questo hanno iniziato già a prendere, cioè a fare anche dei risultati, perché c'era un problema del portiere che non era un granché. Non ce l'aveva fatta, questo invece è veramente bravo questo ragazzino che è venuto, un 92 poi. Questo 91 non è stato giocato in prima squadra? Sì, prima squadra titolare, già l'anno scorso, ma è un fisicaccio alto, vabbè magari un po' pesante, però molto forte. Sto dicendo di scuola portiere da bambino, l'abbiamo avuto noi quando era nei micro, stiamo parlando diversi anni fa. C'era proprio scuola di portiere, poi è andato con la Torres, è andato a finire, poi non mi ricordo con chi aveva giocato, forse con la Lantina un anno ha fatto a livello regionale, boh. Ho un allievo giovanissimo, mi ricordo, e poi è rientrato con noi dall'anno scorso. Comunque è un ottimo portiere, cioè di classe questa categoria è spettacolo. E vabbè, il prossimo anno lo fai solo in categoria, tanto sono avete contatti con società. Noi se volessimo fare il commercio uguale, ma non ci interessa, lui abbiamo dato a mio nipote, sta giocando con la Sassa in prima categoria, un 93, ma se lo vedi giocare ti mette le mani in testa, ma forte veramente, è tutto mancino, dentro lo usa un po', però sta giocando titolare, sta anche segnando, prima categoria fa il colpo, dagli allievi a giocare in prima categoria non è uno scherzo. Vuol dire che là c'è la stoffa, c'è. No, ma non è che fai il commercio, vabbè che qui le spese sempre si tolgono, togliersi, ma è con la soddisfazione vorrei riuscire magari a farlo giocare in una società, in una categoria anche più alta. Cioè, è sempre un bivaglio, tu che stai uscendo, come stai dicendo tu, riuscire a farlo salire una certa più o meno di 3 o 4 categorie. Peccato perché se saremmo andati in seconda magari si è potuto anche andare con voi, Roberto. Vabbè diciamo abbiamo fatto anche per farli, per farlo bravo, siccome c'è lo zio che anche il padrino ci ha fatto lo gamba palloncino, noi eravamo contrari, però un grande parente era troppo diretto di primo grado, ho parlato a farlo provare, anche se dovrebbe diventare l'anno prossimo, diciamo la stagione prossima. perché è proprio contrario a queste cose, cioè o fai il salto grande per andare a giocare in prima categoria, cos'hai in più della seconda categoria, però si prenderà delle esperienze anche lì, prenderà delle esperienze e poi vediamo. Però io dico, sono un giocatore bravo, anche giocando in terza categoria lo vedono lo stesso. Questo potere, c'è un arbitro di eccellenza che ci ha arbitrato, come è finita la partita gli ha fatto i complimenti, è andato all'allenatore e ha detto come si chiama quel portiere? Ha detto nome e cognome, ha detto veramente bravo, erano anni che non vedevo un portiere con quelle caratteristiche. Da uno che c'è esperienza, quindi chissà quanto non mi ha visto, non è tanto. Sì, se la barcano bene, sempre non sei più uscito. Ma insomma, mamma mia. Ieri sono andato a vedere la cerimonia in burrasca, infatti ho controllato gli orbici, ma l'hanno un po' allungati, ho visto che l'hanno spostate un pochettino più avanti gli orbici, le hanno tirate, mollate un po' le cime, perché c'era una corrente di lì dentro. Ieri c'era un maestrale brutto, ma brutto brutto, ma poi con vento, infatti la gente che vuole controllata, sono sceso, ma è tutto a posto. Significa che stiamo a fare su quanto si vota sei uscito, ma no, allora. Si parla di questi due. Ma sai cosa detto? Se adesso si mette l'uomo lei, si mette l'uomo l'erba sotto e ti porta e non vorrei pulirla. Quello sì, l'ho visto, ce n'è un bel di, come si chiama, di erbacea, cosa del genere, però sono fatte cosa arrivare e non li puoi fare niente, se non la usi. Quello è. Se tu la usi poco, vabbè, tu dici, però il giorno che mangiare mi salta la vulga, salta a bordo e parto. Da quella per vero. Ma il motore l'ha messo in marcia almeno, vabbè. Sì, la settimana scorsa l'ho messo in moto. Di media una settimana, 10 giorni l'ho messo in moto. Ok. Vabbè, c'è Danilo, se ne sta facendo di più. Danilo, non vorrei dire male, mi sa che è uscito, non questo sabato, due sabati fa. E scando sta? Non so cosa hanno preso, qualche coloro stanno prendendo questo cavolo di palamite, così. Ma... Se lo faccio, vabbè, lui ci ha passato, mi stava dicendo. Ticca che il video, se tu hai solo telefono e lui dici al grande, noi andiamo a pescare, lui molla tutto e viene. C'ha una passione di quelle allucinate. Il padre si gli piace, ma più che altro lo fa per i figli. Mi dici nulla, che sono loro che ti trascinano, ma se non c'è compagnia, cosa fai motore? Beh, voglio andare una bella sciarpa, voglio andare a trattare, cosa vai? Solo vai, alla fine ti viene la malinconia a fare solo sette volte. Non so, io avevo grossissima passione anni fa di pesca subacquea, andavo tutto l'anno, proprio tutti i giorni dell'anno, anche con la neve sono andato, slitti. Poi ho mollato la pesca subacquea e sono passato qua al gommone, tutti i fine settimana uscivo in gommone, non dico l'inverno pieno, però quando entravamo nelle stagioni tutti i sabati e le domeniche eravamo. Poi piano piano, come ho preso la barca, all'inizio un sacco di entusiasmo, poi sono nate le bambine, meno tempo, di nuovo ho ripreso con lo sport e ho avuto meno possibilità. Diciamo qualche cosina, però se consideri i giorni che vado sono più quelli che sto ferma e altro. Ma già ti come fanno il passo mentre prendi un bel gommone e te lo usi quando ne voglia, almeno vabbè. No, ho salvato, me la fu di guarda, ce n'era nato uno, anche a me l'hanno regalato, uno di altri quelli vecchi, anche se era un proprio nuovo, c'era qualche buco, se volevo mi aveva aperto, lascia perdere, me l'ho tagliato, abbiamo fatto a pezzetti che mi hanno recuperato tutti i pezzi, il corrimano, le cose, per mettermi, io sono un tender piccolino, ho detto me ne taglio tutto e mi ho messo tutte le cose che mi servivano, ce l'abbiamo buttato. Peccato, lascia buono, ma cos'è, la pneumatica era? Infatti no, la chiesa me la sono conservata, perché la porto l'estate ai bambini, perché è nuovo, proprio come era nuovo, solo c'era qualche buco perché l'aveva lasciata in terra, voleva messo qualche tocco, cosa del genere, però era nuovo, si vedeva che era trattato bene. Ora la chiesa pneumatica me la sono preso. Quanto è grande, Robe? 4,20 metri. Tanto non devi tagliarlo, perché tu c'è la passione di andare a Platamura, non so se anche quest'anno ci andrai, ma se ci vai, può portarvi lì, può portarvi da un bijou. Guarda, va, lì ci sono due barche in alluminio, una l'avevamo recuperata noi, nuova, che la tengono mio fratello e il cognato, che quando voglio la prendo e la uso. Qui c'è quella dello zio di mio cognato. Se mi ha detto salvuglio me la regala, per cui posso anche usare la giacchetta. Poi quando vogliamo uscire c'è un pedalò, abbiamo un pedalò nostro, no, vabbè, non è il mio, però diri tutti quelli lì, se devi fare il giretto, ci carichiamo 10-12 persone, ci andiamo a fare il bagno, a tuffare, eccetera. Più volendo ci vuol tendere il piccolino, cosa me ne ha frutti? Se non basta quello, c'ho la barca a 3 km, e cosa vuoi salvato? Se non basta quello. Quello che credo anche della barca che sta usando un livello anche d'estate, proprio perché la scocciatura è una barca, non può saltare, là. Il bello è che lì ce l'hai, non fa male sta uscendo, vabbè, non c'è niente da fare. Quella qui, l'alluminio, guarda, è una praticità unica, non si muta, non si graffia, non si, è leggera, ma è la scelta migliore. Sicuramente, infatti quella lì non ha problemi di usura, né niente, la prendi poi leggera leggera, due persone nella butti in acqua. Sì, vabbè, mi sa che c'è gente sopra, avanti? Chi è avanti? Chi è? Mondino, tu sei? Sì. Ecco, mi sembra che mi stavo avendo il dubbio, ma non sarà vero uno straniero, lo senti a Salvatore, Mondino? E a Salvatore non lo ascolti, lui è a ottava. Trattore maestrale, me l'ha detto lui, sto sentendo qualcuno basso, per cui lui ti ha sentito, mi sembra che non lo senti tu. E l'altro ti ha rilassato, l'hai sentito? Guarda, ho saputo che tu mi dici chi è questo passaggio, vabbè. L'ho sentito poco fa perché fa un correre nell'altro, adesso se sono un po' di correre te lo perdo. Chi è, vabbè? Mondino Dalghero. Mica, se come è così basso, vabbè? Come mai sei basso? Tu sei a momenti discreto, altri momenti forte e certi momenti più basso. Come mai? Stai saltando da sabato. Sì, io ho paura che me sta parlando, che lo schiaccio. No, vabbè, cazzo, va. E se ce la faccio, se di me la ripeto, con la direttiva l'appunto sono Alghero e così ce l'ho appunto. Ma a provvisione sono Alghero. Come sto preparando un progetto, quando è pronto già ti faccio vedere cosa faccio io. Una cubica, una intera, la 27 con due elementi, se tu la vedi hai la paura. Un progetto semplicissimo e mi sa che utilizzo la direttiva, quella che ho, e utilizzo quella come appoggio. C'ho un progetto, ho trovato un progetto allucinante, semplicissimo da costruire. Con lo stesso cavante ci metti un commutatore, non commutatore, un relè coassiale sopra e tutti i diritti, una è orizzontale, l'altra me la metto in verticale, con le cubiche grandi. Non so se sai come sono fatte, semplicissime e leggerissime. C'ha sempre corrotto, non devi usarla. Sì, c'è una resa, diciamo, paragonata al coso, alla Iagi, quella che ho io, di per dire, se quella venne tira fuori 3 libri, questa ne fa 5, la corte è quella, da 3 a 5. E come, adesso mi si sta parlando un mondo, il mondo, cioè perché un mondino, si sta parlando, perché io non lo sento più, è come un ombro, vabbè. L'ingombro tiene presente un'onda intera sulla 27, sono i bracci, aspetta quanto sono, sembra sia 11 metri, 11 metri la devi dividere per 4, per cui ogni lato è 4, 11 diviso 4 quanto fa? Circa 3 metri, 3 metri, 2 metri è qualche cosa avviene, poi devi considerare c'è un coefficiente di riduzione del 95%, per cui ogni braccio ti verrà intorno ai 2,20 metri di questa roba qua. Però siccome filare l'antenna, cioè tu ti fai una croce e mezzo, una base, e poi ci metti questa specie di quadrato, la puoi mettere in coso, come un rombo montato a quelle punte, perciò oppure il classico quadrato infilato dentro, ci metti una croce e attaccata all'antenna. C'è un progetto, Salvatore, che è una cosa spettacolare, perché lo puoi fare col cavo sottile, anche con cavo, senza usare l'RG50, tu puoi utilizzare anche il filare normale, però voglio farla con l'RG58. E ti posso dire, ho visto le caratteristiche, le prove in campo micidiale, molto ma molto superiore alla direttiva della IACI, quella che abbiamo noi. Tra l'altro la puoi far funzionare per trasportare l'orientamento anche in orizzontale, ma non me la fotti una perché lascio in orizzontale e lascio la IACI, quella che abbiamo, che c'ho io, c'era anche tu, la lascio così, mentre per funzionare in verticale metto quella lì, ed è, non so se l'hai mai vista, quelle che c'hanno, sono dei fili grandi, enormi, sono dei quadrati o dei rombi montati in direzione, in direttiva. Mondino, scusate, non ho salvato, avanti Mondino. Sì che ti sento, però non sei tanto forte Mondino, c'è un radio, ti do da 3 a 4, ti ho sentito meglio l'altro giorno. Adesso è meglio, molto meglio. Non senti salvato Mondino? Quanto ti ha rilasciato, l'hai sentito? Guarda, sento che sta parlando qualcuno sotto, ma non lo capisco, non capisco cosa stia dicendo, quindi quando mi lanciano non lo capisco, perché lo smitto non è che si muove, sento la radio, leggera, ma non riesco a capire. sono su a capirlo bene, Rome. Fai appunti tu eventualmente. Hai sentito Mondi? Sì, tutto Mondi. Sì, sì, no, io infatti voglio fare una cosa, io sono, guarda, appassionato di sistemi di antenna, io dico la potenza non conta niente se non hai l'antenna. Scusa un attimino, sono salvato, sto rispondendo a Mondino. Se tu c'hai un'ottima antenna, ti ne affrutti della potenza, perché c'è un guadagno, che conta il guadagno del coso, dell'antenna. Cioè, se tu c'hai una Grand Plane e li metti 100 watt, vai fino a un certo punto. Se anziché vai una Grand Plane, c'hai una Mantova, vai ancora oltre. Se oltre la Mantova li metti una direttiva IAGI, ancora oltre. Se metti una Cubica, ancora meglio. In assoluto, la resa, parliamo di antenne di uso normale, non parliamo di altri tipi di sistemi di antenne, la Cubica è quella che ha la maggiore resa in assoluto, senza arrivare a cose più particolari. Però, in antenne normali, filari è allucinante, ho visto le prove di comparazione e lui infatti me la voglio subito costruire. E va bene Mondi, dai, continuo con Salvatore, ti saluto, rimani se vuoi, purtroppo lui non riesce a sentirti e tu lo senti quasi niente. Comunque Salvatore ti saluta Mondino, ti rilascio per Mondino se riesce a sentirti. Vabbè sì, no, poco fa l'ho sentito, però per me ogni tanto qua c'è attacco le luci, ci sono pieni tutte le installazioni di queste luci di Natale, quindi sento anche le scariche. Lo saluto, senz'altro, non mi dispiace, bisogna che mi migliori verso quella parte, Rome, ma non capisco perché ostacoli, io non ho migliorato quella parte, non è basta l'antenna, non è basta la Mantova. Allora, Salvatore, io molte volte dalle onde elettromagnetiche ho delle cose inspiegabili. Allora, ieri stavamo parlando e c'era questo tipo di torralva, e a parte che lo sentivo male per altri motivi, perché secondo me era fuori frequenza o c'era stazionaria. La torralva io li ascoltavo sempre bene, male, malissimo. C'era Gian Maria, che lui da una parte opposta mia, sicuramente molto meno favorevole di me, e lui lo sentiva, non dico bene, un po' meglio di me, perché lui riusciva a rispondere molte volte. Cioè, quello di cosa mi sentiva a me? Però io era molte volte indecifrabile la radio, anche se il segnale era forte, arrivava a Santiago 5, però lo sentivo male di radio. Lui cercava il segnale Santiago 3, però lo sentiva meglio di me, per dirti. È capitato una volta con uno di Sennoli, Luca non l'ascoltava, che Luca è tutto aperto verso Sennoli, le stesse potenze mie, le stesse antenne mie, lui non lo sentiva per niente, mi diceva con chi stai parlando, e a me mi arrivava Santiago 9. Infatti ho detto, ma c'era ancora a Sennoli? E lui mi ha detto, sono a Sennoli, in alto a Sennoli, nella collinetta. Io lo sentivo Santiago 9 e Luca non riusciva a sentirti, per dirti com'era la radio. Ci sono delle cose che tu dici inspiegabili. Però per me sono il basso di antenna, è che io non l'ho voluto mettere così, perché non ho messo con i tiranti, no? E i componenti non ho messo, perché sono degli altri, se avessi tirato su guardi, almeno 5 metri, guarda, c'è un tanto avrei migliorato. Ma io ho parlato di questo delle altezze, è vero sì, per le lunghissime distanze, però per altri certi discorsi, se c'è una montagna davanti non è che ci ammazzarmi, perché le onde radio lavorano in un certo modo. Però io dico, se tu c'hai visto che c'era la possibilità di mettere la direttiva, mettitela verso Alghero, fissata verso Alghero, cioè te la orienti in quella posizione lì e te la metti di lì, tanto ce l'abbiamo anche il GPS su cui mi posso avvicinare, prendiamo esattamente le coordinate e giriamo l'antenna esattamente su Alghero, tanto un po' ti apre e ti puoi fare anche magari Sintino e quelle altre zone lì, se non fai all'Alghero, magari non proprio Sintino, ma quelle zone lì che te le puoi fare, Villanova eccetera eccetera. Secondo me metti la verticale, la ci fissa, e poi quando io ho provato questo sistema d'antenna che ti ho detto io, questa Cubica, poi ne riparleremo e vediamo un po' cosa fare, se si può sistemare a casa tua. Io adesso sto cercando di progettarla e di vedere un po' come fare certe cose, e poi ne riparleremo. Comunque tu montare una verticale fissa non ti costa niente, una direttiva in verticale. Io non la posso montare col rotore perché sennò mi butta in terra tutto, però quella Cubica la posso fare perché è leggerissima, non, a livello di vento non me prende. Sì, ascolta, la struttura com'è di questa Cubica? Tutti in alluminio? No, Salvatore, ti spiego. Allora, tu c'hai presente un quadrato con un filo elettrico sottile, ne prendi un quadrato e ci metti nei lati filo elettrico. Va bene, ma il filo elettrico come lo tieni? Allora, devi fare una croce tu, che prenda in diagonali, le due diagonali, cioè presente, i due vertici del coso, un riferimento una croce che ti prenda un vertice e l'altro, le due diagonali del quadrato. Sì, sì, ho capito, ma va bene, queste croce poi deve essere collegato al palo centrale, come vanno a fare in alluminio? Allora, queste croci le puoi fare anche, c'è presente tu quelle secchette in coso, in area di vetro, tipo le vecchie antenne, una canna da pesca per dirti, dai, facciamo l'esempio più facile, una canna da pesca, lì puoi fare queste cruci. Ho capito, sì, no, perché sono alluminio, tubo neonio, tutti vanno di vari diametri, ma se ti serve te lo preparo, la teniamo pronta. Ma tubo di che dimensione? Guarda una cosa leggera, insomma. Che il tubo di tutte le dimensioni ne ho, quindi, anche leggero, ma 8 di diametro, che è più piccolo che c'è. Vabbè, ho già va bene, quanto ce l'hai lungo? Devi considerare che devi fare in diagonale un quadrato, aspetta, che misura la diagonale? Scusa, ce l'ho qua un progettino. Che misura la diagonale tu? Ma questo è per un'altra frequenza, mi sembra che sia per i 10 metri, aspetta, scusa. Allora, vabbè, questo è per i 14 MHz, per cui fate un conto per quanti metri, 14 MHz per quanti metri corrispondono. Z, non riesco a capire. Pure. Vabbè, comunque 14 MHz mi sembra che siano, qua sono i 15 metri, insomma. Sì, ma aspetta, tu mi hai detto che ogni braccio deve essere 2 metri e finiti, così è. Aspetta, ti faccio il conto al volo, tanto sono calcolati, c'è un secondo, non sono... 14 sono i 20 metri. Chi è che ha parlato? Chi ha parlato? Roberto? Dimmi, Roberto, non ho sentito nessuno, che c'era qualcuno sotto. Ho sentito 10 metri, non ho capito. Forse sono i 10 metri, 14 MHz, no, ma mi sembra strano. I 14 sono i 20 metri. Ma chi sei? Ma sei tu sei? Sì, sono io. 14 sono i 20 metri. 300 diviso 14 e sai quanti metri sono. Sì, c'è ragione, sì, sono 21 metri, infatti, esattamente. Voi chiamatelo 20 metri, la banda è 20 metri. Però, come si chiama? Calcolando, aspetta, facendo 300 diviso... 300 diviso 27 da gli 11 metri, per cui dobbiamo mettere quel coefficiente, allora, facciamo l'intero senza coefficiente, diviso 4, viene 2,77 m, di questi 2,77 m salvato dobbiamo ridurre, mi pare del 95%, aspetta, 95. Mettiamo la percentuale, vabbè, comunque le 2,70 le ridurre al 95% ogni lato e ti metti, poi c'è Massimiliano qua, lui ci può aiutare perché lui è quello che mi ha detto come fare la canna da pesca, che era una bomba, l'ho fatta a Massimiliano, facciamo le prese a Massimiliano, vai, avanti tu Massimiliano. Ma fate, dunque devi fare 300 diviso per dire 14 o diviso 27, quello che è moltiplicato per 0,97 così c'è del rame e basta. Infatti stavo dicendo così, io mi ricordavo 0,95, comunque siamo di lì come valori. E poi è quella misura lì che saranno 2,50 all'incirca, sono, come si chiama, i 4 lati, ogni lato dell'antenna. Sì, beh, calcolo, ma se la scegliamo, l'ho ben sentito, e calcolo così, ma non so quanto io di quel tubo. Ho detto, aspetta, sono 11 per 97 uguale, sono 10,67, quindi 10,67 diviso 4, sono 2,66, diciamo 2,65 per lato, di diagonale, quindi... Aspetta come si fa, l'area del quadrato è lato per lato, quindi sono 2,66 per 2,66 uguale 7 metri, quindi sarà intorno ai 3 metri il tubo più o meno la diagonale a occhio e croce. Ce ne vogliono? Due ce ne vanno, ma che vedete, magari non lo fai tutto intero perché lo devi dividere, se vado di fare una crociera in mezzo, perché la parte di mezzo li metti una crociera dove ne tagli i tubi, perché mica lo dovrei tagliare il tubo in mezzo per farci mettere lo zero, ci va, ti fai la cubi, diciamo, ti monti questo quadrato, diciamo, o rombo che sia, dipende dalla configurazione, dall'orientamento che lo metti, e poi ci deve essere un bastone centrale per collegare i due elementi, e devi fare una crociera per innestare. Sì, ho capito, quindi si usa solamente quindi 7 qui, ho capito. No, ma ce l'ho abbastanza sufficiente quello che c'ho da me di questo tubo. E io non so cosa faccio, siccome ho già l'antenna la verticale in orizzontale montata alla direttiva IAGI, uso come supporto per attaccare la crociera e la parte centrale, l'ortello centrale della IAGI, quello lungo, diciamo, il più lungo, quello che ti dà la direzione d'orientamento dell'antenna. E poi, come si chiama, non ho trovato il telaio, i due telai di coso, uno da una parte e uno dall'altra, devo vedere le distanze, perché non mi ricordo a che distanza, ma se mi dà l'idea a che distanza vanno messe queste cubiche per mettere a due elementi. Esatto, cioè, c'è tanto da fare tra il reflettore e il radiatore. Sì, lo so, però non me lo ricordo, dovrei cercare qualche rivista di più specifica, con più indicazioni, c'è un calcolo particolare, diciamo, adesso non me lo ricordo, in base al numero degli elementi mi sembra un terzo devi mettere, adesso l'avevo studiato quando ho fatto il libro del coso, però non mi ricordo come sia, almeno per gli aghi era così, un terzo mi sembra, e poi l'altro elemento, se sono più di due elementi non so quanto si mettono. Comunque dovrò verificare. E tu le avrei capitato di provare queste antenne, Massimiliano? Io per esempio ho delle cose, ho le delta luce che sono a forma triangolare a polarizzazione verticale, diciamo benissimo, sono leggere, sono filari, le fai in un attimo, non ci bisogna fare niente, sono dei microci triangoli o un'intera. Io ho capito, le conosco. Dimmi una cosa, ma tu usi la Regi 58 come cavo di o un filo elettrico normale? Non cambia niente, dico, basta che sia un filo, è necessario che sia rivestito, isolato o va bene anche un filo di rame nudo? Molti usano il rame fosforoso, che rende meglio, rende, però va bene, io uso il filo elettrico, quello normale da rivestito da 2,5. Sì, quella della canna pesca, quella che mi avevi detto tu di fare, Massimiliano, che ti posso dire, una resa molto superiore alla Mini Grand Plain, vabbè, sicuramente le dimensioni sono diverse, l'avevo fatta un quarto d'onda, l'avevo messa su a Quartamona, l'avevo provata, ma una resa a segnale da 5 a 9 sono passati per farti un riferimento, quelli che non riuscivo a sentire li sentivo, per dire, e quelli che mi ascoltavano 5 mi ascoltavano 9, ho avuto un miglioramento allucinante, e l'ho fatta con la canna pesca telescopica, gli ho messo l'attacco a pannello sotto, ho utilizzato una vecchia antenna come supporto, quelle a molla, cioè vedete che si utilizzavano nelle macchine e c'hanno già l'attacco sotto, ho soltanto quello lì e poi gli ho infilato il cavo centrale di lì e poi gli ho messo i bracci, i quattro bracci con filo, ho usato quel filo giallo e nero di coso, di massa, mi pare da 2,5. Ti posso dire, è una bomba, da. Ce l'ho messo qua, montata e la uso così per ricevere un po' tutte le bande, la uso da 3 MHz e mezzo fino ai 50 MHz con l'accordatore, perciò va benissimo. Ma se ti vuoi fare un'antenna leggera, tranquilla, senza stare lì a diventare scemo, invece di farti una cubica a due elementi, provati una delta lungo, non leggera. Tanto se ho capito che non la devi far roteare, devi tenere ferma, ti fai una delta lungo, non leggera, che è un grosso triangolo, polarizzata in linea verticale. Vedi che, come ti diverti, è sinistra, perché la verticica è cortocircuitata, e invece della foto, invece di usare lo stufo, usi il cavo da 5 ohm, un quarto d'onda della frequenza utilizzata, si fa praticamente il trasformatore di impedenza, fai e loro riporta 50 MHz e poi fa la discesa normale e poi mi racconti. No, ma io la voglio usare con l'ottore, io ce l'ho già il rotore, io la verticale, la IAGI ce l'ho montata in orizzontale perché in verticale prenderebbe troppo vento e non mi fido con quel rotore perché vorrebbe un palo molto più grosso, l'ho montata in orizzontale, io voglio montarla col motorizzata. Io ce l'ho polarizzata in verticale, però ce l'ho finta, non sono con il rotore, ma ci faccio, arrivo ovunque, porto più lontano le Americhe, figurati, in Nord America. Dura, no, vabbè, se capita oggi non me lo fai vedere come fa, vediamo come farla e vediamo. No, ho visto le prove comparative molto superiori alla IAGI, cioè non mi immaginavo che un'antenna del genere rendesse di più della IAGI. Ma guarda, il discorso è che in certi aspetti è meglio la Yagi rispetto alla Delta Lupo, in altri è meglio la Delta Lupo della Yagi. Guarda, se chiedi a Marco, se lo dice lui, c'è la Delta, sia la Yagi che la Delta Lupo, e c'è anche la musica. E a lui ce l'ha, perciò ha fatto le prove comparative. In alcuni casi ha vinto la Yagi, in altri la Delta Lupo. Comunque siamo lì, non è che si cambia precisamente. No, vabbè, ma tu mi dirai che non è che stiamo parlando di completamente diverso come guadagno, perché magari uno anche guadagnato e l'altro 3,5 per dire. Però c'ho un vantaggio che io la posso montare in verticale e posso motorizzarla perché è leggera, mentre con questa verticale, con questa Yagi è troppo pesante, ci vuole un palo più robusto, un motore più robusto, se c'è il vento deve preoccuparsi, per cui ho detto la Yagi la lascio in orizzontale e me la tengo come supporto per montare la cubica, solo per provare, poi naturalmente poi le prove, ma non avrai il rosso, basta, è quello di Mari che mi preoccupa un pochettino, arrivare al rosso, non dico a 1,1, ma arrivare almeno entro l'1,5. Quella che ho fatto con la canna aperta, 1,2, senza correttore, andava benissimo. Sarà stato un colpo di fortuna, non lo so, ma non è andata la prima. Facciamo vedere un attimo la salvata, perché se no saranno via. Avanti, salvato. No, continua per ascoltarlo, perché io mi interessa, perché sai che voglio risolvere il problema all'Alghero, perché con l'Alghero accetto quei 2 o 3 che arrivano con segnaloni, il resto non ascolto per niente, quindi forse, come ripeto, forse un modo per riuscire a risolvere il problema, Robert. Sì, vabbè, piano piano. Ma tu ce l'hai, lui ce l'ha Massimiliano, ce l'ha 3 elementi di Yagi, non l'ha ancora installata. Ha detto, metti la montata fissa, te la dici questo almeno, cazzo, moltiplichi la potenza. Tra l'altro, non ti sentiranno come ti ascoltano adesso, però ti metti il commutatore antenna, ti fai 2 calate, tanto il tragitto non lo devi fare. Per cui sei molto più avvantaggiato rispetto a me, che io ci devo mettere quasi 40 metri di cavo per ogni antenna, ho 3 cavi d'antenna, adesso se metto questa, non lo so se mettere un altro cavo oppure mettere un commutatore, come si chiama, un elequaziale. Cosa dici tu, Massimiliano? Guarda, il commutatore che devi fare tranquillamente con il relè normale, lascia per le equaziali che si usano per dare VHF in su. Puoi usare tranquillamente un commutatore fatto in relè normale, io ne ho fatto uno in laboratorio, funziona benissimo. L'ho provato con il realizzatore di rete scalare per vedere se mi dava problemi come stazionari e non è da. Perciò ti confermo che puoi usare il relè classici e normali. Qua c'è un progetto infatti su questi qui, però dimmi una cosa, con un unico cavo ti devi portare la relè, li metti tu dentro casa o te li porti su? Ma dipende anche da cosa vuoi fare, puoi mettere il relè sotto al centro e fai una discesa e discendi il cavo di commutazione, perché così diciamo che prendi di meno. Il discorso però è questo qua, che se hai fatto ad esempio di 4 antenne, e le colleghi a quell'apparato, quando usi un'antenna le altre 3 antenne rimangono ferme, invece di fare un ormai commutatore, gli fai un commutatore array, per dire 4 antenne e che cosa ne so, 2 discese, 3 discese, qual è il vantaggio? Che tu a seconda delle combinazioni, senza toccare le connessioni, puoi decidere quale antenna su quale apparato vuoi far andare, nello stesso momento usi più apparati. No, quello sto già facendo, io ho 3 calate di antenna, ho la direttiva, la mantova e la multimanda, ho 3 calate, però adesso per dire se metto questa cubica sto dicendo dovrei fare un'altra calata di filo, perché io su ogni apparato ho un commutatore a 4 uscite e me li commuto su ogni apparato, ho attaccate le antenne, più sul, come si chiama, sull'accordatore c'ho la possibilità di attaccare altre 2 antenne, faccio antenna 1 e 2, per cui lo sdoppio pure questo fatto qua. Cioè c'ho un commutatore antenna, anzi non la 4 posizioni, la antenna 1, 2, sì, a 4 posizioni e le passo su ogni apparato e poi sull'accordatore c'è il commutatore suo e c'è altre 2, c'è commuto la direttiva e la mantova. Però per evitare di scendere un altro ulteriore cavo, io volevo utilizzare, come hai detto tu, un sistema relè di comando. Però vuoi alimentare, devi portare sempre un'alimentazione sua e così, o devo fare tramite cavo d'antenna? Sono i sistemi che lo puoi fare anche tramite cavo d'antenna, però sono consigliati, conviene portare l'alimentazione, ma a quel punto lì ci fate un'altra calata, non c'è cosa migliore di avere calate singole per ogni antenna. Io potevo fare quelle del saluto, si possono mettere concentriche, cioè una dentro l'altra, e fare un'unica cavata. Però c'è sempre il discorso che puoi alimentare una radio solo, ci sono dei tardi, ci sono delle perdite di inserzione. Invece se rifai una discesa per ogni antenna è la cosa migliore. E poi uso a quelle del saluto, il rosso scende uno a uno, perché per accordarla, una volta che si chiude il giudice, non devi tagliare niente o allungare nulla, devi solamente roteare l'antenna sui tre punti fissi, perché praticamente allunghi o accorci il quarto d'onda di alimentazione, che poi è una bandiera da quanto l'antenna, quella antenna è quello lì, capito? No, guarda, se hai la possibilità ti consiglio di fare una calata per ogni antenna. Io sono arrivato già a 20 discese, per cui la maggior parte sono cavi grossi, insomma, perché ce le ho per le cementi, per le V, per le UHF, per i 1200, per i 1200, ho recuperato del Cerflex da un fatto di pollice e devo fare quelli di calata, lo devo testare sui connettori, per il Cerflex, e farò un'ulteriore calata. Non fare così perché non ti rompi le scatole, non hai problemi, tutto quanto. Dopo io vado a mangiare, ci sentiamo magari dopo. Massimiliano Di Mele, saluto a tutti quanti e vi auguro una buona cena a tutti. Massimiliano, prima di chiudere, niente mi dici dalla Roma mia? Niente, tutto quanto fermo, chiuso, si riapre dopo la Befana. Ah vabbè dai, no, solo a livello informativo. Comunque ciao Massimiliano, buona carica, noi siamo qua sul 30, eventualmente quando vuoi siamo qua. Allora ti saluto. Buona carica Massimiliano, ci sentiamo nel prossimo. Certo che l'antenna è importante, cosa dicono gli americani, è la base di tutta l'antenna. Ma no, $1 per l'apparato e $100 per l'antenna, sì, è così, guarda, se capiti male in officina, l'altro giorno ce l'ho detto con l'amico mio radiamatore, stavamo parlando di gente di qua che c'ha antenne megagalattiche, che secondo noi sono megagalattiche, gli ho fatto vedere un sistema, cioè gli ho fatto vedere, l'ho visto per sbaglio un sistema di antenne, ho fatto, stavamo parlando certo con Marco l'altro giorno di questo radiamatore, un certo Maurizio, che Marco conosce benissimo, mi ha detto quello è il top in Italia, che stava montando un'antenna, ho detto, di 40 metri, che pesa 4 tonnellate, con una gru, c'è la fotografia su YouTube e tutto quanto, e che c'aveva il telemarco separato dal suolo, con 100 metri radiali, non so di quanti metri erano, per dirti che cosa era, e io pensavo di aver visto tutto lì, ho girato un attimino, c'è una stazione per gli 80 metri, montata su delle rotaie di treno, motorizzata con dei carrelli di treno, dei vagoni ferroviari, cioè solo il traliccio, ci sono 64 pannelli, non so di che dimensioni sono, questa è una cosa da paura, se tu vedi queste tante antenne, dici chi è questo scemo? Sarà di dimensione, cosa ti posso dire, 40 metri per 40 metri di larghezza per 40 metri di altezza, montato su un traliccio allucinante e su questi vagoni di treno le muove su 360 gradi queste antenne. Quella sono proprio gente preparata, che è tutta una serie di cose. Però vedi, tutto questo, prima del 27, lì che parliamo, con il famoso discorso che stavamo facendo. Tutto quello che stai dicendo tu va benissimo, tu dici sei scemo, poi montato un'altra energia nella 127, però io cioè, sono uno di quelli che mi piace sentire delle cose che gli altri magari non possono sentire, nel senso la soddisfazione mia è dire, mica ho sentito Alghero, vabbè Alghero è vicino, era di Bussuri, la Spezia, quando gli altri non sente nessuno, non sentono neanche uno spiffero, e io l'ascolto per dire tutti i giorni, metto l'antenna e mi sento. A me mi è capitato in 27, quando c'era proprio l'antenna, stavo parlando con questo di San Paolo del Brasile, mi sembra che te l'ho detto, dice c'è montato la direttiva verso l'Europa, non verso Badi, verso Sossolo, verso l'Europa, lui ha girato l'antenna e l'ha buttata verso l'Europa, e mi ascoltava Santiago Onofre, e gli altri per dire erano tutti muti, nessuno sentivo del Brasile, io sentivo a questo cuore Santiago di San Paolo del Brasile, e arrivava lui Santiago Nove e mi ha dato lo stesso rapporto di segnale, e lui non è che ce l'aveva 20 kW, sicuramente avrà avuto una quarantina di watt, adesso non mi ricordo quanto erano, se erano 40-80 watt, eppure mi sentiva, io sentivo perfettamente a lui, tutto il lavoro lo faceva l'antenna sua, non mica la mia. Sì, è vero, però magari quello altre antenne per la sua perfetta, cioè la 27 era un colonnario, cioè magari poi bisogna assolverla quella cosa che ci vogliamo tornare ad esempio, in poche parole. Ma capito, scusa, che? Dobbiamo tornare in quella città, dai. Ah sì, sì, quello è vero. Lo stavo facendo ieri, stavo facendo che, infatti detto, dove ha informato, dice che c'è un negozio, un distributore, la mia Cagliari, che vende tutto baracchini, lineari, antenne. Ma sapevi questa? No, non lo sapevo, ma dov'è? Ma non sono uno di quei paesetti vicino a Cagliari, infatti dice Gianluca non lo sa, infatti se capita lì a Cagliari, tu dici, vai, ti conosco se devi mettere benzina o gasolio, in questo caso ci fermiamo a vedere. Si dice, dove magari, siccome ci capita spesso, io almeno, non dico tutti i mesi, ma una volta ogni due mesi scende a Cagliari, se mi dice, vabbè, ma non trova più la sempre questa roba. Marco Gianni, non sai esattamente, dice lei con Gigi non Vulcano, però io non lo so, vabbè, ci informeremo. Sarebbe a proposito, cambiando il discorso dei nomi di antenne, ho telefonato un amico per il dimetro della macchina mia, mi ha detto che tra parentesi lo vendono anche solo il sensore, però mi ha detto, mi ha fatto tutti e due i prezzi, non c'è differenza, costava la stessa cosa. Mi ha dato 110 euro più IVA da scontare, quello di Olbia, è un grossissimo fornitore che altre volte ho acquistato quando c'era un amico mio che lavorava, che poi tra l'altro si è licenziato, era rappresentante e fa dei grossissimi sconti. Cosa ne dici tu? Vabbè, buono, cosa è macchina di Luca in questo caso? No, aspetta, come si chiama? Eurotraining, una cosa del genere. Vabbè, è un benissimo, è buono, è fatto, invece c'è poca differenza al controllo completo, almeno io lo sapevo che per me è per smontare, non lo tiri intero, lo metti intero, vabbè. Sì, ma quello che ti voglio dire, è un tubo il resto, cioè o c'è qualcosa dentro, qualche membrana? Non c'è niente, c'è solamente una specie di sensore, ma c'è anche una farfalla dentro, eh. Ah, quindi c'è qualche parte mobile, in movimento, perché magari cambi solo, no, ho deciso che lo prendo intero, ma l'abbiamo messo da parte, il problema è che è ovvio, non mi posso andare, c'è mio cugino che lavora tutti i giorni, però in fede doveva darci luce, mi ha detto, cazzo, vabbè, non ci vado, non ci ritorno direttamente il lunedì 4, per cui adesso aspetto che ritorni lui, speriamo che non se lo venda, ho detto, mettimelo da parte. Perché a Cagliari non ci stanno venendo in questi giorni di festa, però speriamo non mi rimanga a piedi, la macchina non cammina, cioè non rende come dovrebbe rendere, però a camminare già cammina, ovviamente lo rende, perché come che non arriva la centralina sono dati che a me non gli fanno bene, in poche parole. Però scusa, vabbè, se ce l'ha, guarda che l'hai con il Corriere Espresso, sta viaggiando tutti i giorni da Olbia, oppure ti do il numero del telefono di un altro che fa Sassari, Tinto, Arzachena, Olbia e ritorna, e passa lui e te lo ritira. Vabbè, ma glielo devi parlare, non è che vanno così questi qui, cosa? È un contrassegno, no, lui te lo manda in contrassegno e poi lo vogliamo spesso così. Ah, ti ritorna anche il contrassegno le cose? Io penso che questo se un negozio lo faccia, no? Facciamo tutti, lo facciamo. Mica domani, quando viene a avere la macchina, quella macchina lì, mi ricordo che telefoniamo là e come glielo chiediamo. Sì, no, non ricordo, ma tutti sono dimenticati, non c'è problema. No, ma tanto posso aspettare. Mio cugino è che è in ferie adesso, perché lui tutti i giorni viaggia, lui lavora all'ufficio di Urbia, l'ufficio tecnico di Urbia, tutti i giorni parte la mattina alle 5:30 e ritorna la sera, mi sembra. Certe volte vabbè fa anche la sera e rientra tardi, perché fanno rientro, insomma, il martedì o il giovedì. Se no rientra verso le 4 e qua, lui finisce alle 2:30. Mamma mia, come si bacia i bambini? Tutti i giorni con la strada di Urbia, si bacia i bambini ogni volta. Ma non è la fine, ma cacchio, è un bel rompimento di scavo, oppure questo mio cugino è sediato in macchina, mamma mia, non ti vuoi sedere con lui, è poco gamelleggia. È poco bello di sedere, mamma mia, specialmente un volo che non piove. Lui c'ha la 147 con la multijet, chi cammina un bene di per sé, a me dice, io arrivo appunto a 210, 200, ma tu sei tutto scemo. E vabbè, ma c'è una sala che fa schifo, se non la fanno altro che avvicinarci lei se ne sta a Saiuna, ma zona, ma diciamo il tragitto più importante per noi, perché ormai è diventato un punto strategico, e ormai non va, una vergogna, ma comunque, intanto non è una che ci vediamo, li telefoniamo, se tu magari vuoi far arrivare prima, perché domani è martedì, loro potrebbero darglielo martedì sera, mercoledì mattina tu ce l'hai il pezzo. E vabbè, sabato non è importante, dai, fuzzi di vino, già questa domenica, a me domenica, lunedì, fuzzi di vino, lasciamo perdere, poi vediamo. Tanto, problemi non me ne fa, mi fa un po' più di fumo la macchina, boh, non devo fare mica revisione, lo faccio da poco, per cui non mi preoccupo più di tanto, i consumi magari saranno un po' più sostenuti, però aspettiamo lui, dai, così non scomodiamo. A proposito del salario, perché non passi nella camionabile tu? Andiamo nella camionabile. Ma no, a fare la porta torta. E beh, c'è per me indietro, ormai, devo tornare indietro, ormai, per fare proprio cose, sono a metà strada io. Io sono esattamente l'ottavo, è a metà strada, fra Sassoli e Fortorese. Però insomma, sto dicendo, se c'è la moto, se vedi quella strada è tutta distrutta, hanno messo i limiti di 50 per quasi tutto il tragitto, qualche pezzettino c'è, fine limite di 50 per dire per un chilo, tutta distrutta, tutta spaccata, io non so cosa stanno aspettando a sistemarla. Lei è pericolosa, forte. Chissà, quando l'ho fatta con i piedi vuol dire, tu la fai spesso un po', no? Sì, qualche volta ci vado, quando sono in fretta per andare a Porto Torres, passo di lì. Naturalmente la fregatura non hai capito cosa costa fare un passaggio, per dire, dal pezzettino di ottava che ti colleghi alla 131, così, per dire, per andare a Porto Torres, giro lì, anziché far tutto canto lui e arrivare giù sino alla strada mediterranea. Sì, lo so, ma la fregatura che va fuori dalla 131, non va fuori, dalla 131 non c'è la possibilità di collegarti con quella d'Alghero, addirittura, con la d'Alghero io lo trovo a Sassa, la prenderia dove vorrei prenderla. Figurati, hai detto tutto, stanno dicendo, molte volte fanno le strade e non so con quale criterio, hai detto, l'hai visto cosa ci hanno fatto di fronte a me, con la rotatoria che hanno messo di vicino a Vigile Urbano? Ma l'hanno fatta complicata, cioè ci devi fare una manovra, a parte la tempo che è stretta, cioè, nel punto dove giri per salire altre robe. No, ma non ci può entrare, adesso l'altro giorno è venuto l'assessore con un amico per cercare di modificare il passaggio. Quelli che vengono da Carmonati per andare in via Garzia non possono entrare, devono salire via Calofelice e fare il giro di via Corraduzza, oppure scendere giù via Wagner, cioè verso via Calofelice e salire via Wagner. È una cosa allucinante, infatti quella gente è convinta che sia senso unico via Garzia. Dunque le cose che poi sembra così, ma ti creano problemi anche all'attività, magari a voi no, ma magari qualche attività viene danneggiata, e qua ci deve fare, ma almeno, sai, l'assessore se viene, controlla, può prendere sempre delle diciamo, può rimediare, e invece molte volte se ne fregano e rimangono mesi e mesi, lunghi anni in certe situazioni, perché per esempio, anche delle cose, ma perché non fanno doppio senso? Che questo fatto di fare col pezzo scontro mano, non sai quanta gente ci sale contro mano ancora? Allora, è quella rotatoria inutile che hanno fatto dopo Santos, a te meglio. E la cattedrale del deserto, è rimasta la stessa cosa, se va fino a Santos, la rotatoria è costata chissà quanto, e tra l'altro è sempre chiusa, non capisco il perché, vabbè lasciamo un po' di... Beh, comunque io me ne devo lasciare, ma tu ce la fai? Ho mangiato poco fa un pezzettino di pizza, non so se ne sei accorto, stavo mangiando pezzettini, ma non è che ne avevo molta di fame, ce li avrei tratti di questi giorni, insomma, va bene. Non lasciare meglio le tracce, capito, adesso devo fare una cosa, che stavo cercandomi dei documenti, e mi è capitato un progetto di una vittoria, cioè lock trap, a larga banda, che misura da 3,5 a 30 MHz. Che cosa? No, già ho visto dei progettini, proprio a trovare cose leggere, questa che ho visto io adesso su questo ciclo elettronica, è una cosa leggerissima, cioè la posso mettere nel rotore, siccome non prende il vento, non ha resistenza al vento, tipo quelle Yagi che sono abbastanza pesanti, se le metti in verticale fanno un bel effetto vela, questa è a 2 metri di virus, ho salvato niente, c'è a parte la struttura diagonale, la crociera diciamo, che la puoi fare con il materiale più leggero che vuoi, tutto il resto è un pezzettino di filo da 2 metri, per cui che cavolo di problema ci potresti avere. La voglio proprio costruire e poi ne riparleremo, vediamo chi è che ascolta meglio qua in zona. Comunque Salvatore ti lascio mangiare, dai, ossia che poi non te ne tocchi. Ciao, ci sentiamo domani, se riesco a avvicinarmi così vediamo quella storia là. Ok, ciao ciao, buona carica, tanto rimango un pochettino qua, faccio un giro e spengo anche io. Ciao, vabbè, ciao, no, poi domani mattina già te lo ricordo. E poi la devo chiamare questa qua, così mi dai un consiglio. La guardi e mi dici, sì, vale la pena gustarla, tanto tra le cose, oppure direttamente rotoliamola e la buttiamo via. Ok, dai, già saluti, ve lo te lo ricordo, vabbè. Ci sentiamo, saluti, a questo quadro familiare. ci sentiamo, ci vediamo domani mattina direttamente. Ciao Roberto. Sì, arrivederci al centro, ciao ciao.